Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena. Ma non ci parliamo più da quando hai morso la mela. Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena. Nei punti in cui mi toccavi, ora ho un eritema. Per te cammino sul fuoco, attraverso la bufera. Mi ameresti senza un euro, senza la mia carriera. O mi guarderesti a bere e forse ti farei pena. Farei un taglio sul polso, lungo quanto il mondo, per mostrarti la più piccola parte di quanto soffro. Sei fuggita col vento, ora nel cuore un soffio. Mi hai fatto fare nottata come un bruttissimo sogno. Sei un faro a forma di scoglio, di te non ho bisogno. Sei solamente un imbroglio, sei tutto il male del mondo. So di non esserti piaciuto manco per un secondo. Sparisci dalla mia vista, sei tutto ciò che non voglio. Oh. Ehi Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena. Ma non ci parliamo più da quando hai morso la mela. Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena. Se tu fossi in tribunale vorresti me per poter fuggire, perché ho imparato a perdonare le tue bugie. Ma se fossi in ospedale vorrei te prima di morire. La vita scorre davanti, occupi gli istanti. Dinamiche cattive con un cacciavite. Io provo chiodo, schiaccia chiodo, scopo solo per venire. E va, e vadi e vai, via dalla mia vita. Perché il cuore mio è una mela e dentro c'era un parassita. Stringo il tuo seno, è come cogliere il frutto proibito. Mi lascia tutto stordito, come togliere il buio all'abisso. Mi hai tradito con il serpente, la tua lingua biforcuta mi ha fatto i migliori di sempre. Oh, ehi Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena. Ma non ci parliamo più da quando hai morso la mela. Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena. Amore occhi di cera, anche stasera. Kid, you get Edward, attori ultima cena.